perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti, vittoria ampia sia nel voto popolare che in quello dei grandi elettori. Hillary riconosce la sconfitta, ma per ora non parla. Il primo discorso all'insegna della riconciliazione, riconosce i meriti della Clinton, chiede unità, annuncia il suo piano economico, sulle relazioni con l'estero non si sbilancia. Putin dice pronti a ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, soddisfazione dal turco Erdogan e da Israele, Merkel offre collaborazione, giù i mercati. La crescita italiana allo 0,7% nel 2016, scrive la Commissione europea nelle previsioni di autunno, rallenta il PIL in tutta l'eurozona, secondo Bruxelles. Siate dubbiosi e trasgressivi, questo è il testamento di Umberto Veronesi lasciato ai Medici. Da domani la Camera Ardente a Palazzo Marino, a Milano. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Come potrete immaginare, quella di oggi è una puntata un po' speciale, ci occuperemo parecchio delle elezioni negli Stati Uniti, non solamente nello spazio canonico, sia nella prima parte della trasmissione, poi alle 13.45 in America 24, ma anche nel corso della trasmissione. Non tralasceremo nemmeno il nostro consueto giro per l'Italia con un paio di notizie che abbiamo trovato in giro sui quotidiani locali e che ci hanno interessato. Iniziamo dunque questa lunga cavalcata appunto sul risultato delle elezioni americane con un punto generale e con la nostra Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, ancora buongiorno. Si sta risvegliando l'America con la costa est con Trump presidente. È stata una lunga nottata al termine della quale Hillary Clinton ha ammesso la sconfitta, non ha ancora parlato pubblicamente, ma ha chiamato Trump per congratularsi. Fondamentale nella notte è stato il voto in particolare in Florida, che alle 4.53 ora italiana ha segnato 29 grandi elettori al miliardario americano, e da lì è sembrato difficile per la candidata democratica recuperare il distacco. Alla fine è netto quando mancano tre stati, ma ormai è fatta, sono 279 grandi elettori per Trump contro 218 per Clinton. Sono andati a Trump tutti gli stati in bilico. Il paese è abbastanza scioccato. Tuttavia le prime mosse di Trump, presidente, sono molto conciliatorie. Ha fatto un discorso pacato volto all'unità del paese e quindi ha abbandonato i toni aspri usati durante la campagna elettorale. Si è congratulato con Clinton per la dura battaglia portata avanti, ha detto, ma sentiamolo. Now it's time for America to bind the wounds of division. È tempo, ha detto, per l'America di mettere al bando le divisioni, di unirci tutti, noi democratici e repubblicani, è tempo di restare uniti come paese. Bisogna anche dire che il Partito Repubblicano ha mantenuto la maggioranza sia alla Camera che al Senato, eppure quella di Trump non sarà una luna di miele con il Congresso, perché Trump è amato dalla base, come sappiamo, ma non altrettanto dal partito, ed è tutto. E grazie dunque a Valentina Furlanetto per questo aggiornamento. Come vi dicevo, torneremo a parlarne più avanti, faremo un'analisi anche con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, e iniziamo a fare un giro delle reazioni. Tra un attimo andremo a quella dei mercati, andiamo prima a quelle internazionali con Laura Bettini. Laura. Buongiorno, sì, congratulazioni, ma qualche preoccupazione quella per l'elezione di Donald Trump. Cominciamo però dai più rilassati, i russi, così ha detto il presidente Putin. Faccio le congratulazioni al popolo americano e a Trump, e poi si è augurato Putin di poter far ripartire le relazioni tra i due paesi, che dice non per colpa nostra sono arrivate a questo punto. Poi la Turchia, perdonate a Trump le uscite sui musulmani, si congratula. Erdogan dice inizia una nuova stagione. Non si sbilancia la Cina, sono diplomatici anche il presidente del Consiglio europeo Tusk e quello della Commissione Juncker. Non dovremo risparmiare, hanno detto, alcuno sforzo per assicurare che i legami tra noi restino forti e duraturi. Meno diplomatico il presidente del Parlamento europeo Schulz, questo è un momento difficile nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa, e poco diplomatico anche il francese Hollande in un certo senso, perché ha detto questa elezione apre un periodo di incertezza. Tende invece immediatamente la mano a Trump la premier britannica May. Gran Bretagna e Stati Uniti rimarranno partner stretti e vicini, e collaborazione ha offerto subito anche la Germania in virtù, ha detto Merkel, di comuni valori. Memore degli attacchi all'Alleanza Atlantica, il segretario della NATO Stoltenberg si è congratulato con Trump, ricordando però che per l'11 di settembre l'intervento in Afghanistan proprio gli Stati Uniti invocarono l'articolo 5 per la difesa collettiva. E infine, Simone, il Messico, dove regna lo sconcerto sia economico che politico. Non abbiamo trovato una dichiarazione ufficiale dell'attuale presidente, è sbottato però l'ex presidente messicano Vicente Fox, ha detto ovviamente non pagheremo per il suo maledetto muro. È così. E grazie dunque a Laura Bettini, queste le prime reazioni internazionali e poi verremo anche a quelle italiane, ma prima di tutto ci sono quelle dei mercati. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Allora, vai Deborah. Allora, intanto devo dirvi che abbiamo le prime indicazioni che arrivano da Wall Street dopo lo shock iniziale che ha colpito i mercati finanziari quando è apparso evidente che Donald Trump sarebbe diventato il 45esimo presidente degli Stati Uniti. I listini americani riducono i ribassi e si preparano ad una apertura sicuramente negativa ma meno drammatica di quanto si fosse pensato nelle ore scorse, quando proprio nei minuti in cui era chiara questa indicazione appunto politica, i futures sul mercato americano indicavano perdite del 5%, esattamente come è successo in Europa. Le preaperture indicavano aperture tra un meno 4 meno 5% per le piazze continentali, poi l'apertura è stata la metà, appunto sempre all'insegna della perdita rispetto alle preaperture. Adesso la situazione in Europa qual è? Abbiamo dei cali ancora generalizzati e diffusi, ma che si sono comunque ridotti rispetto all'inizio della seduta. Parigi scende dell'1,39%. Francoforte meno 1,25, Londra perde lo 0,6%, Madrid perde 2,5 punti, Milano meno 2,27. In realtà poi nell'ultima ora c'è stato un altro indebolimento, perché siamo arrivati anche addirittura a Londra a superare la soglia negativa e andare in positivo, per cui comunque il tema è che c'è grande nervosismo evidentemente, ma gli investitori tentano di trarre vantaggio rispetto alle prime indicazioni date appunto da Donald Trump e a quelle che saranno le sue politiche economiche, tant'è vero che il mercato italiano per esempio, esattamente come succede nel resto d'Europa, punta stamattina sul cemento, sulla difesa, sul settore farmaceutico, sul settore petrolifero. Buzzi Unicem, il miglior titolo di Milano, guadagna 4 punti insieme a Leonardo Finmeccanica, bene ricordati più 3, Tenaris e Saipem in rialzo di circa 2 punti. Stabile il rapporto sulle valute, l'euro sul dollaro a 1,10,87, si è divaricato stamattina leggermente lo spread rispetto agli ultimi giorni, intorno ai 160 punti base, si è un po' irripidita la curva dei rendimenti dei titoli appunto italiani, soprattutto sulla parte lunga della curva, sui titoli a lunga scadenza. Altro effetto, parlavate prima del Messico, stamattina abbiamo avuto il tracollo appunto del peso messicano rispetto al dollaro, il petrolio è tornato fra i 44 e i 45 dollari al barile. Questa è la fotografia di questo momento, ricordando che è stata piuttosto negativa anche la seduta sui mercati asiatici, che sono stati più colpiti rispetto al risultato elettorale americano. Simone. E grazie dunque a Deborah Rosciani, ovviamente con i mercati torneremo alle 13.30 con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, come tutti i giorni. Noi adesso a scendere, abbiamo fatto le reazioni internazionali, quelle dei mercati, veniamo a quelle italiane perché ci sono anche qua. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, esultazione nel centrodestra e nei grillini distanza nel centrosinistra. La vittoria di Donald Trump divide il mondo politico, per Beppe Grillo è un vaffa pazzesco, ci sono similitudini tra questa storia americana e il movimento, siamo nati e non se ne sono accorti, ma sentiamo il leader del Movimento 5 Stelle. Pazzesco. Questa è la deflagrazione di un'epoca, è l'apocalisse dell'informazione, della televisione, dei grandi giornali, degli intellettuali, dei giornalisti. Nel centrodestra, da Maroni a Brunetta, da Toti a Fratelli d'Italia, esultano tutti il trionfo del tycoon americano e la vittoria del popolo contro i poteri forti, questa la tesi, contro l'establishment e le elite intellettuali. E per Matteo Salvini della Lega, da oggi Renzi si ferma qui. A proposito del premier, Matteo Renzi, che ricordiamo ieri tifava per Hillary Clinton, mostra comunque rispetto per il voto e promette una collaborazione con il nuovo presidente americano. L'amicizia resta forte e solida, dice Renzi. Sì, un fatto politico nuovo che invita a partire anche da qui, al netto di alcune differenze da campagna elettorale. Insomma, c'è il tentativo poi di riportare tutto al caso italiano e quello che succederà il 4 dicembre, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Abbiamo dato un quadro di cronaca, tanto di quello che è successo negli Stati Uniti, quanto delle reazioni internazionali, i mercati, quelle nazionali. Beh, però vediamo chi è questo 45esimo presidente degli Stati Uniti. Miliardario di famiglia, uomo di successo con una moglie bella e giovane. Il suo nome sulle torri di Manhattan o Las Vegas ha fatto di The Donald, indipendentemente dai debiti accumulati o dai fallimenti di alcuni investimenti, l'emblema di un certo sogno americano, da qualche tempo appannato nella parte più arrabbiata del paese. Così l'outsider settantenne è passato dalle risate che avevano accolto con incredulità la sua discesa in campo nell'estate 2015 all'investitura da 45esimo presidente degli Stati Uniti, il più vecchio di sempre. In mezzo uno slogan che più di tutti ha parlato al paese: We will make America great again. Facciamo grande di nuovo l'America. Erede di un grosso costruttore edile, 5 figli, ha messo il suo nome su collezioni di merci di vario genere, accrescendo ancora di più la sua notorietà insieme al successo della fortunata serie TV di Apprentice, il reality in cui selezionava aspiranti imprenditori. Da sempre tentato dalla politica, l'ha frequentata prima da democratico, poi da repubblicano, anche se in questa corsa alla Casa Bianca è stato anche osteggiato dai big del suo partito, convinti che il ciclone Trump si sarebbe alla fine sgonfiato con i vari scandali e gaffe, soprattutto a sfondo sessista. Ma invece lui, The Donald, evocando muri antimigranti, attacchi al trattato di libero scambio e all'establishment, è diventato, per dirla col regista Michael Moore, una molotov personale antisistema per la maggioranza degli americani. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non si è votato solamente però per le presidenziali, ci sono stati anche molti altri voti importanti in una serie di referendum negli stati, come spesso accade quando ci sono le presidenziali. Sentiamo. Nel giorno che ha decretato il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America, in 9 stati si è votato anche per la legalizzazione della marijuana ad uso medico o ricreativo. I primi risultati sono arrivati da Florida e Arkansas, che hanno deciso di legalizzare l'utilizzo della cannabis a scopo medico. Anche North Dakota e Montana si sono espressi a favore dell'uso medico della marijuana. California, Massachusetts e Nevada hanno dato invece via libera alla legalizzazione della marijuana per uso ricreativo. Questi stati si aggiungono ad Alaska, Colorado, Oregon, stato di Washington e Washington DC. Al voto anche Maine e Arizona. L'uso della marijuana sarà comunque limitato, come quello dell'alcol, vietato ai minori di 21 anni, proibito in gran parte degli spazi pubblici e tassato. L'Oregon ha approvato il referendum sul suicidio assistito. La normativa permetterà ai malati con 6 mesi o meno di aspettativa di vita di porre fine alla propria stessa vita. In Nebraska, infine, torna in vigore la pena capitale. Gli elettori hanno infatti votato a favore del ripristino della pena di morte dopo che nel 2015 l'Assemblea legislativa ne aveva deciso l'abrogazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alle altre notizie, iniziando dalle previsioni economiche di Bruxelles. La crescita dell'Eurozona rallenta e la Commissione europea allima al ribasso le previsioni di crescita. Quest'anno il PIL si fermerà all'1,7% e non all'1,9% previsto in primavera. Revisione all'ingiù anche per l'Italia, dove, stima Bruxelles nelle previsioni autunnali, la ripresa prosegue a passo modesto. Pesano incertezze e strette condizioni di finanziamento. Roma chiuderà così il 2016 con un incremento del PIL dello 0,7% contro l'1,1% stimato in primavera. E anche nel 2017 la crescita si arresterà sotto l'1%, allo 0,9% contro l'1,3% previsto. La Commissione ha invece lasciato invariato a 2,4% il deficit italiano per il 2016, mentre alza sempre a 2,4% quello del 2017, stimato all'1,9% in primavera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lo sentivate nei titoli, siate dubbiosi e trasgressivi. Questo è quello che possiamo considerare una sorta di testamento spirituale di Umberto Veronesi, lasciato ai medici in una lettera oggi al quotidiano Repubblica, il suo ultimo articolo prima di morire. È proprio di lui come medico che vogliamo parlare oggi, lo facciamo con la nostra Nicoletta Carbone. Nicoletta, eccoci. Grazie Simone, sì. Siamo tutti colpiti, portiamo un dolore dentro, che è un dolore, che è una nostalgia, perché ciascuno di noi ha un debito di riconoscenza nei confronti di questo uomo, questo medico, grande ricercatore che ha proprio dedicato la vita a migliaia di donne, che ha insegnato alle donne il valore della prevenzione e che si è sempre battuto anche per l'umanizzazione delle cure. Simone, lui sognava degli ospedali più belli e invitava proprio proprio i medici, i suoi collaboratori, a impegnarsi ad accompagnare le donne, perché diceva è più facile togliere il tumore nel corpo di una donna che non toglierlo nella sua testa. Quindi a sottolineare quanto era proprio proiettato a migliorare la qualità di vita delle donne, a migliorare la vita. E poi io ho avuto il piacere di conoscerlo, devo dire che mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita. Stamattina di getto gli ho scritto una lettera, ed è quello che inviteremo a fare anche ai nostri ascoltatori, perché venerdì accompagneremo il professore. Lo accompagneremo ricordandolo, e credo che il modo migliore per ricordarlo sia così, ricordare un po' il suo esempio. Lui invitava sempre a guardare avanti, a guardare in un futuro che doveva essere necessariamente migliore del presente. E poi quello che mi piaceva del professor Veronesi come medico e come uomo è questo suo profondo rispetto e nei confronti dell'amore. Le donne, lui ha scritto dei libri bellissimi, anche raccogliendo le storie delle donne che gli avevano insegnato tanto come pazienti nell'affrontare la malattia. L'amore è quell'energia che ci fa amare la vita e ci spinge ad andare avanti, ed è l'amore anche che ha così indirizzato Veronesi sicuramente nelle sue ricerche, che hanno cambiato proprio la faccia dell'oncologia, dal linfonodo sentinella era tutto orientato a anche risparmiare il corpo delle donne, quindi è un grande rispetto. Allora Nicoletta, io nel ringraziarti ricordo agli ascoltatori, come già hai fatto tu, che ci sarà una puntata speciale di Cuore e Denari proprio nella giornata di venerdì, e che è aperta una pagina sul nostro sito per chi ha avuto a che fare direttamente col professor Veronesi o con i suoi metodi di cura, e che se vuole scriverci una sua testimonianza, un suo racconto o quello che preferisce, un ricordo, quello che vuole, un'immagine www.radio24.it, potete andare là e scrivere naturalmente. Grazie dunque a Nicoletta Carbone. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ricominciamo a parlare di elezioni americane subito dopo il traffico, e poi nella seconda parte della trasmissione ritorneremo col nostro giro per l'Italia. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno. Dunque, e in questa puntata, naturalmente un po' speciale, torniamo a parlare di elezioni americane in questa seconda parte della trasmissione, in questa seconda parte di Effetto Giorno. Nella prima parte abbiamo fatto la cronaca, la più pura cronaca, abbiamo raccontato com'è andata la notte, abbiamo fatto qualche accenno al primo discorso di Donald Trump eletto presidente degli Stati Uniti, abbiamo sentito le reazioni internazionali e anche le reazioni italiane. Adesso passiamo naturalmente a fare un po' di analisi, lo facciamo con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Mario, ciao e buongiorno, o eccoci. Buonanotte, insomma, quello che è naturalmente. Buongiorno Simone, buonanotte, buongiorno, sì. L'alba, non lo in queste so, giornate perché, insomma, per voi ormai non c'è più tempo. In queste giornate per voi si confonde tutto, naturalmente. Mario Platero, che ritroveremo come sempre alle 13.45 in America 24. Mario, allora, prima di andare nel dettaglio sulle prime parole di Donald Trump e su quello che ci possiamo attendere, ti chiederei un'analisi generale su questo voto. Mario, vai. Ma dunque, è il voto che ha dato corpo alla protesta americana. C'è una protesta diffusa, lo sappiamo, c'è una classe media infelice, ci sono persone che debbono fare due lavori per arrivare alla fine del mese. Nessuno, credo, si era reso conto di quanto diffusa fosse questa protesta. Non se n'erano accorti i sondaggisti, non se n'erano accorti i giornali americani, non ce ne siamo accorti noi che in qualche modo operiamo in questa nuvola che cerca di guardare dall'alto quello che succede in questo straordinario paese. Ecco, Trump è riuscito a cavalcare questa ondata per il cambiamento, e devo dire ha vinto anche con sua sorpresa, perché già questa mattina, quando si cominciava a ragionare su quello che poteva essere l'esito del voto, personaggi vicini a Donald Trump esprimevano una certa prudenza, e dopodiché è riuscito a fare l'impossibile, è riuscito a fare il miracolo, a sconfiggere la predestinata Hillary Clinton, promettendo a sua volta, quando poi ha parlato al suo pubblico, di riportare gli Stati Uniti lungo la retta via del loro destino. Certo, questo dal punto di vista generale, insomma, e così possiamo interpretare almeno di primo acchitto questa vittoria, evidentemente. E poi c'è da guardare un po' al futuro, perché tanto abbiamo sentito in questa campagna elettorale dai toni accesissimi e anche molto violenti da parte dello stesso Trump, però il primo discorso che ha fatto è stato un discorso molto presidenziale. Sentiamo un passaggio che riguarda soprattutto i rapporti con l'estero. We will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great, great relationships. No dream insomma, is too big, insomma, no Mario, challenge. Grandi relazioni con tutti, insomma, non, no? Non usciamo dalla scena internazionale, grandi relazioni con tutti, senza preclusioni. Trump ormai è presidente eletto, si è reso conto di avere una grande responsabilità sulle sue spalle, ha detto di aver parlato con Hillary Clinton e ha chiesto al suo pubblico di rispettare Hillary per il lavoro, per il servizio che ha fatto al paese. Ecco un tono completamente diverso da quello che abbiamo ascoltato fino a ieri sera, quando Donald Trump continuava a ripetere Crooked Hillary, dicendo che se ne doveva andare in prigione. Insomma, il Trump presidenziale. Sì, tra l'altro c'è... Mario, ti interrompo solamente per dirti, uno dei candidati più divisivi della storia che dice in realtà nel suo primo discorso: adesso dobbiamo riunire l'America, no? Dobbiamo riunire l'America, perché questo che si deve fare, caro Simone, qui l'America è spaccata sul piano demografico, è spaccata sul piano geografico, è spaccata in Parlamento, le istituzioni sono in crisi, c'è un lavoro di ricostruzione che va fatto al più presto. Ecco, questo incarico, questa missione adesso tocca a Donald Trump. Se avesse vinto Hillary, bisognava fare lo stesso. Cioè, è questa la prima missione che dovrà affrontare Donald Trump. Riunificare il paese, ha promesso che lo farà, ma soprattutto ricostruire le istituzioni, dall'FBI al Parlamento, ai repubblicani che erano contro di lui e che si ritrovano adesso a dover lavorare con un presidente che non credevano avrebbe mai potuto vincere la Casa Bianca. Sì, e che per molti aspetti non fa parte del loro mondo. Ti voglio portare su un altro punto, su un altro punto che è l'ultimo, ed è quello che riguarda l'economia. Abbiamo visto oggi una reazione dei mercati particolarmente negativa, a partire dall'Asia che si è trascinata anche in Europa. Vedremo come aprirà Wall Street, ma al di là della reazione dei mercati finanziari, che è una reazione di fronte all'incognita, come spesso accade in questi casi, c'è il tema del programma economico. Un punto solamente ha citato Donald Trump, che tra l'altro è parallelo, no, al programma economico di Hillary Clinton. Sentiamolo. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I've spent my entire life in business. Allora ha detto ricostruire la nazione, il sogno americano, ma ha parlato anche di un enorme piano per rimettere in piedi le infrastrutture americane, creando così lavoro. Molto, molto keynesiano per essere un repubblicano, Mario. Assolutamente, assolutamente. È un personaggio, devo dire, straordinario, Donald Trump, da questo punto di vista, creativo, pragmatico. E in questo su questo piano in particolare, l'idea di Hillary e di Trump coincidono, nel senso che Hillary aveva un programma per investimenti infrastrutturali di 250 miliardi di dollari, Trump lo vuole di 500 miliardi di dollari e vuole davvero, ha detto, si è impegnato in questo suo primo discorso a ricostruire non solo i ponti, ma gli aeroporti e tutto quello che l'America deve avere al massimo del livello disponibile, sia tecnologico che estetico. Del resto l'estetica, come sappiamo, appartiene al suo mondo, al mondo dell'immobiliarista che vuole tutto al meglio. Allora Mario, io ti ringrazio e ovviamente, come ho già detto agli ascoltatori, ti ritroviamo alle 13:45. Buona giornata o buonanotte e buon lavoro. Ciao Mario. Ci risentiamo fra poco, un abbraccio. Abbiamo sentito qualcosa di abbastanza generico da Donald Trump sulla sua politica internazionale. Bene, vogliamo andare in un posto che è un fulcro in questo momento della politica internazionale, soprattutto della politica medio orientale degli Stati Uniti, ed è l'Iraq, dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno e ben ritrovato. buongiorno a voi. Ad Erbil ti trovi dopo essere stato vicino a Mosul per cercare di capire come sta andando avanti la battaglia contro l'ISIS. Dacci una tua prospettiva da quelle zone. Beh, intanto vi do una buona notizia, se non altro, cioè che è caduta Bashika, che era una roccaforte a 10 chilometri da Mosul, tenuta dai jihadisti, una, diciamo due o tre dozzine di jihadisti tenevano in scacco 2000 peshmerga curdi, e questa è caduta ed è una buona notizia, anche se questo assedio di Mosul promette di durare settimane almeno, perché ieri vedevo costruire una strada militare e quando si costruisce una strada militare l'impressione è che l'assedio durerà a lungo. Dunque il Medio Oriente, perché il Medio Oriente è importante? La politica americana, disse Frank Zappa, è la divisione intrattenimento dell'apparato industriale militare degli Stati Uniti, una formazione che per me è più vera che mai in Medio Oriente, dove in 8 anni di presidenza Obama gli Stati Uniti hanno venduto 98 miliardi di dollari di armi sauditi e fatto contratti militari con Israele per 38 miliardi. Questi interessi hanno toccati da Trump? Io non credo. Credo che, oltretutto, con i suoi appoggi nel settore dell'industria petrolifera, Trump sarà anche un gestore dell'esistente. Cambierà, ha detto, le alleanze americane? Ma io ho qualche dubbio, perché è vero che può migliorare i rapporti con la Russia e con l'Iran, ma butterà all'aria le alleanze appunto con i sauditi e gli israeliani, che hanno costituito per quasi un secolo il pilastro della politica americana. Qualche dubbio io ce l'ho. Penso che lui sarà un gestore eclettico dell'esistente, con qualche impennata populistica e spettacolare che spiacerà tutti. Questo da un punto di vista generale. In particolare, lo scenario medio orientale tra Siria ed Iraq è strategico proprio per i rapporti con la Russia, Alberto? Ma non c'è dubbio, qui a Mosul siamo in una pianura sassosa e rigurgitante di jihadisti e di petrolio, dove a poche centinaia di chilometri c'è la Russia, no? Che sta stringendo d'assedio insieme a Bashar Assad Aleppo. E gli americani, se vogliono trattare davvero con Mosca, devono portare qualche carta in mano, cioè impadronirsi di Mosul e magari anche della capitale del califfato Raqqa, e definire insomma un po' quella linea di faglia tra est e ovest che è sembrata saltare in questi mesi di vicende medio orientali. Attenzione, perché i prossimi 2 mesi qui saranno cruciali. E i prossimi 2 mesi non li gestisce Trump, ma li gestisce ancora Obama, cioè un presidente che gli ha fatto la campagna contro come mai si era visto nell'ultimo mezzo secolo di presidenziali americane. E grazie ad Alberto Negri in diretta da Erbil per questo racconto e per questa analisi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire di nuovo cosa succede sui mercati per un punto con i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, poi avremo 10 minuti per il nostro viaggio in giro per l'Italia consueto e poi tornerà Mario Platero con America 24 tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti, vittoria ampia, Hillary riconosce la sconfitta. Il primo discorso all'insegna della riconciliazione, riconosce i meriti della Clinton, chiede unità, annuncia il suo piano economico. Putin dice pronti a ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, soddisfazione dal turco Erdogan e da Israele, Merkel offre collaborazione. Crescita italiana allo 0,7% nel 2016, scrive la Commissione Europea nelle previsioni di autunno, rallenta il PIL in tutta l'Eurozona, secondo Bruxelles. Siate dubbiosi e trasgressivi, le ultime parole di Umberto Veronesi, scritte per I Medici, la Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, eccoci di nuovo, un breve spazio per il nostro giro per l'Italia, il nostro consueto giro per l'Italia, una puntata ampiamente dedicata alle elezioni negli Stati Uniti. Voglio farvi sentire un audio. Agrigento città ha in questo momento pendenti 12.376 istanze di sanatoria e o condono e ne riesce a concludere meno della metà, circa 6.000. Vi do i numeri di quanti immobili si sono demoliti concretamente in questo ultimo triennio. Agrigento ne ha demoliti soltanto 6. Parliamo di abusivismo edilizio, se non l'avete capito. La voce di Luigi Patronaggio, che chi è? È il procuratore di Agrigento, ieri in audizione alla Commissione Ambiente del Senato. Ebbene, di questo avremmo dovuto parlare con Calogero Firetto, sindaco di Agrigento, ma non è la prima persona che, come dire, che non si fa trovare. Vabbè, vedremo di recuperarlo domani perché il tema è interessante. Parliamo invece di una bella iniziativa in chiusura e ci occuperemo. Ne parliamo con Roberto Canali, buongiorno. Buongiorno, in collegamento con noi da Norcia, del consorzio, fondatore di questo consorzio, mi sembra di aver capito, o presidente, non ho capito bene la qualifica, del consorzio We Are Norcia. Il tentativo è quello di dare come dire, spazio e possibilità di vendita ai produttori locali, ho capito bene? Allora, innanzitutto è importante dire che non sono il fondatore in quanto non c'è un fondatore unico, ma è nato dal basso questo consorzio, per davvero, con dalla riunione inizialmente in maniera informale di un gruppo di persone, di imprese di tutti i tipi, dal turistico al commerciale a prodotti tipici, ma anche la semplice partita IVA. Dall'evento terremoto, dal primo evento terremoto del 24 agosto, sì. E poi però ovviamente con l'ulteriore incremento della serie sismica, gli obiettivi del consorzio necessariamente sono cambiati, adesso siamo di fronte a degli scenari completamente nuovi. Completamente diversi, perché la gente dentro Norcia non ci può, molto semplicemente non ci può più stare, ci sono, esatto. Lo abbiamo raccontato, per quanto riguarda in particolare i produttori di salumi, una grande eccellenza di Norcia, ci sono magazzini interamente devastati, difficoltà con gli allevamenti e via dicendo, senza parlare delle strutture turistiche. Esatto. Allora ci tenevamo innanzitutto con lei a chiarire che in questi giorni, è anche un'informazione di servizio per gli ascoltatori, stanno girando su WhatsApp liste o presunte liste di produttori norcini ai quali ordinare per come dire, confortarli, aiutarli in questa fase difficile del terremoto. Il tema, Canali, è prestateci la massima attenzione perché innanzitutto rischiate di sommergere quei 4-5 che sono nella lista e che non sono in grado di soddisfare tutte le richieste, dall'altra parte ci sono delle difficoltà di trasporto e così via. Insomma, non è tutto così semplice, anche questo è il vostro obiettivo, mi sembra di aver capito. Sì, esattamente. Ora nell'immediato siamo Norcia e purtroppo molto esposta mediaticamente, dico purtroppo perché magari fosse l'esposizione mediatica che si potrebbe auspicare, ma è legata all'evento sismico e alla questione della solidarietà. Siamo fortunati che c'è una grande richiesta di aiuto, di offerte, di acquisto di prodotti in questo momento. Si è contemporaneamente però diffusa anche una fobia in rete, soprattutto per la ovvia difficoltà nel poter verificare che queste liste poi siano effettivamente veritiere. Io posso dire che la lista che ho potuto leggere io e che adesso attualmente su un sito di un webmaster locale che è valnerinaonline.it, tra poco ci sarà anche sul nostro consorzio wearenorcia.com, è una lista comunque attendibile. La difficoltà però per molti potrebbe essere proprio nel riuscire a contattare i produttori, perché in questo momento i produttori, i commercianti sono E voi, mi scusi brevemente perché abbiamo veramente 10 secondi, voi potete fare da intermediari su questo oppure no? Noi stiamo provando a organizzarci per questo. Benissimo. Allora ci aggiornerete, facciamo così, ci aggiornerete su wearenorcia.it, quando avrete altre novità naturalmente ne potremo parlare anche qua in effetto giorno, vi siamo vicini come siamo vicini a tutte le popolazioni colpite dal terremoto. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.